ma non è con vestette. Non che dice che botte, ma non ha le ore con tette. Idiote, idiote, fai estate a una potette. Non che dice che botte, ma non ha le ore con tette. Idiote, idiote, fai estate a una potette. Era mania amico, sta manneggia un ciosco. E da me rame dei chem, era monte di via. Che dice che botte, ma non ha le ore.